4 mattino. Se guardate le statistiche, l'incidenza fra i bambini sotto i 10 anni del coronavirus è praticamente zero, la mortalità è anche praticamente zero. E qui si parla di chiudere le scuole. Chiudere le scuole significa che i genitori non avranno dove mettere i bambini e che quindi non potranno neanche andare al lavoro, e si dovrebbero prendere considerazioni un pochettino più ampie di quello che si fa sull'impatto che avrà sul lavoro e sull'economia. Buongiorno, ma il problema da noi in Italia sono i giornalisti che non fanno altro che parlare di questo, e tutti i talk show, basta, ma siamo noi, anzi siete voi. Già, noi siamo più bravi della Germania. Loro hanno avuto i contagiati prima di noi, ma hanno fatto meno controlli. Noi siamo più bravi perché siamo l'Italia e dobbiamo fare più controlli. L'abbiamo fatti e abbiamo più contagiati solo perché abbiamo fatto più controlli. E brava Italia, brava, brava, brava, crediamo. E vabbè, un po' di ironia dell'ascoltatore, però insomma la sostanza pare che sia questa, pare che sia questa. Oh, poi per carità, noi ci affidiamo alle parole, ripeto, di virologi, infettivologi, epidemiologi che ci spiegano questa cosa, e sembra, l'ipotesi più probabile sembra questa. Il fatto che ci siano più casi perché stiamo facendo più controlli di altri paesi. In merito ai giornalisti che ne parlano, alle trasmissioni, io non so se se ne è accorta, cara ascoltatrice, non so se se ne è accorta, però Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna hanno chiuso le scuole, cioè noi ne parliamo perché siamo matti noi. A Milano chiudono i locali dopo le 18. di che dobbiamo parlare? Non ne dobbiamo parlare? Abbia pazienza. Anzi, ci accusano, ne avete parlato troppo poco finora. Improvvisamente troviamo l'esplosione. Il tema non è quanto se ne parla, il tema è come se ne parla. Che informazioni si trasmettono, quali sono quelle verificate, che cosa si fa circolare sul tema del coronavirus. Il tema non è la troppa informazione, ma la selezione delle informazioni e la qualità delle informazioni. Quello che stiamo cercando di fare qua, con fatica, ripeto, perché poi insomma anche pescare le fonti giuste, trovarle, sapere chi ti dia un punto di vista calmo, tranquillo e razionale non è facile, però è quello che stiamo cercando di fare. Ripeto, con grande difficoltà, tutti quanti, non parlo solo di 24 mattino, parlo di tutta Radio 24, a partire dai colleghi del GR, passando per Nicoletta Carbone, per quello che stanno, il lavoro che stanno facendo anche Alessandro Milan e tutti gli altri, insomma tutti quelli che si stanno occupando della questione. È la seconda parte di 24 mattino, martedì 25 febbraio, è la parte dedicata alla rassegna stampa, sono le 7:23 minuti 45 secondi, al microfono sempre Simone Spezia. E come sempre un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, innanzitutto a partire dal Sole 24 Ore, che si dedica all'aspetto economico di tutta la vicenda. Virus, tonfo delle borse, oro al top, in arrivo un nuovo decreto per le imprese, il tutto accompagnato da un editoriale del nostro direttore Fabio Tamburini, del quale avete sentito una sintesi in GR24, ovviamente più esteso sul quotidiano. La forza di reagire senza perdere la testa, questo il titolo. Si dà anche notizia di Volkswagen che riapre le fabbriche in Cina. Altri 4 morti, ma i focolai sono gli stessi, scrive il Corriere della Sera nel suo titolo principale. La Repubblica, il virus contagia i mercati. La Stampa, il virus divide l'Italia e piega le borse. Virus, il caso frontiere, è il titolo del Messaggero sui rapporti con gli altri paesi europei. Noi li cerchiamo, altri paesi se ne infischiano, è quello del Fatto Quotidiano, il titolo del Fatto Quotidiano. Hanno chiuso l'Italia, crolla la borsa, il quotidiano nazionale. Non si ferma, ma Conte pensa alle intercettazioni, è il titolo del giornale. Gli africani ci mettono in quarantena, quello della Verità. Le vie del virus sono infinite, quello di Libero. L'impegno è antivirale, quello di Avvenire. Il limite ignoto, quello del Manifesto, con una grande foto in prima pagina di una ragazza su un tram a occhio milanese con una mascherina sul volto. La Gazzetta dello Sport, Juve-Inter, porte chiuse. Però facciamo una bella cosa, visto che ci dite, insomma, ne avete parlato troppo. Adesso ci torniamo sul coronavirus e su come lo trattano i giornali. Però fateci anche dire che il mondo va avanti, il mondo prosegue. E un po' di tracce di questo mondo che prosegue le trovate sui quotidiani di oggi. C'è sicuramente la vicenda che abbiamo raccontato dell'assia del carnevale nel quale un uomo si è fiondato contro il corteo di carnevale, facendo 30 feriti, tra cui molti bambini. C'è la condanna per Harvey Weinstein, lo avete sentito in GR24, ma c'è anche altro, a partire da quello che ci racconta il Sole 24 Ore a pagina 13. Buona testimonianza del mondo che va avanti. Filomena Greco ci racconta che partono i lavori per l'alta velocità Torino-Lione, finalmente, al via i lavori per 150 milioni sul versante italiano del tunnel. A gennaio, ci racconta Filomena Greco, sono scaduti i termini per la gara, valore 64,3 milioni di euro, utile a individuare chi realizzerà il futuro svincolo della Maddalena, servirà per la viabilità dedicata al futuro cantiere di scavo del tunnel di base e una volta conclusi i lavori resterà come accesso all'area di Chiomonte. Dunque, lavori per 150 milioni sul versante italiano della Torino-Lione. Sono tre bandi aperti per la realizzazione di altrettanti interventi, uno in capo al TELT, la società partecipata da Italia e Francia. Il mondo va avanti, ci racconta Filomena Greco, dunque, con la vicenda della TAV, e ce lo racconta anche Micaela Cappellini a pagina 14 del Sole 24 Ore, con un'altra storia che vi voglio sottoporre perché è una storia interessante, ha a che fare con i nostri rapporti con gli organi di giustizia europei e con una nostra eccellenza, ossia l'aceto balsamico. La sfida europea all'aceto balsamico, così Modena ha perso la partita. E quale partita ha perso Modena? È una notizia che è passata un po' sotto traccia e che risale al 4 dicembre scorso, quando, ci racconta Micaela Cappellini, la Corte europea ha decretato che le parole aceto e balsamico, prese singolarmente, possono essere usate da chiunque senza per questo violare l'esclusiva del consorzio italiano. E dunque che cosa sta succedendo? Sta succedendo che grandi aziende che si occupano di questo, come la De Nigris con i suoi 250 dipendenti, deve inevitabilmente virare sul business. Perché? Perché ci sono aziende tedesche che a questo punto, un'azienda tedesca in particolare, che può creare un prodotto chiamandolo balsamico, come potete ben capire, su uno scaffale di un supermercato internazionale questo può chiaramente confondere le idee. Il primo nostro competitor in Europa nel segmento dei condimenti, dice appunto De Nigris, è un tedesco che fattura 500 milioni l'anno. Il fatturato di tutto l'aceto balsamico prodotto nelle acetaie emiliane vale circa 450 milioni di euro. Se questo produttore tedesco decide di scendere in campo utilizzando la parola balsamico, è evidente che siamo tutti finiti. E quindi si passa ad altro, si passa all'aceto di mele, a quello di barbabietole, insomma si cerca di diversificare la produzione. Pagina 14, Micaela Cappellini sul Sole 24 Ore. Il mondo che prosegue, il mondo che prosegue anche con delle inchieste o dei fronti interessanti, i nostri amici ascoltatori, cittadini romani, ma anche quelli che sono passati da Roma conoscono la triste vicenda delle scale mobili della metropolitana. Ancora la metro Barberini, per esempio, nella quale la scala mobile è stata riaperta parzialmente. Ebbene, abbiamo le conclusioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gara fatta dall'ATAC per la sistemazione delle scale mobili e si scopre, diciamo che tutto sommato ce lo potevamo aspettare, che questa gara è stata fatta al risparmio. È stata fatta al risparmio con un ribasso d'asta del 49,5%. Siamo a pagina 15 del Fatto Quotidiano e quindi il bando per la cura delle scale mobili, scrive Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano, non era idoneo a selezionare soggetti in possesso di adeguata competenza ed esperienza in relazione allo specifico servizio. E quindi succede quello che abbiamo visto. Il 23 ottobre 2018 il ferimento di 24 russi presenti nella capitale per la partita fra CSKA Mosca e Roma. All'episodio di Repubblica, rimasta inagibile fino al 26 giugno 2019, a marzo 2019 la fermata a Barberini, perché? Perché la gara era evidentemente stata fatta male, assegnata alla persona sbagliata. A proposito di trasporti di altro tipo, abbiamo la vicenda dei Casellanti, niente male, raccontata a pagina 19 del Corriere della Sera, una vera e propria truffa messa in atto ai danni della Milano Serravalle, Milano Tangenziali, e ha a che fare con i Casellanti, appunto. Che cosa facevano? Praticamente si intascavano una parte del pedaggio tramite una serie di trucchi piuttosto ingegnosi. Per esempio, mettevano un ostacolo fisico alle cellule ottiche delle barriere, che non potevano più rilevare il transito dei veicoli, e quindi si richiedeva la gestione manuale dell'operatore, il quale incassava il pedaggio in contanti ma poi non lo registrava nel sistema. Oppure, tramite un curioso meccanismo, cosa facevano? Facevano inserire un biglietto di altro tipo, per esempio di una tratta breve, all'automobilista, gli facevano pagare il pedaggio intero e si tenevano la differenza. Morale: un sistema adoperato da un dipendente per 1917 volte e da un altro dipendente per 2700 volte, per un complessivo incasso di 200.000 euro. A chiudere questa parte, per così dire, non dedicata al coronavirus, il Messaggero ci porta a pagina 16 con Lorena Lo Iacono, a una notizia che, insomma, ha a che fare con i ragazzi che si preparano alla maturità, ma non solo a loro, ovviamente anche alle famiglie, al tema della stretta che arriverà sui voti, perché ci sono troppi 100 e lode, ci racconta. Ci racconta appunto Lorena Lo Iacono a pagina 16 del Messaggero. Nel 2007 i 100 con lode furono circa 2700, nel 2019 ce ne sono stati 7365, con una collocazione geografica spostata tutta al sud. La percentuale nazionale dell'1,6%, si registra un 3,4% in Puglia, a cui seguono Calabria, Umbria, Marche e Campania, e uno 0,7% di lodi in Lombardia, a seguire Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Però che cosa succede? Succede che, secondo i test Invalsi, la situazione è completamente invertita, nel senso che gli studenti del sud, nelle scuole del sud, sono meno preparati di quelli del nord, e dunque si prepara una stretta. Pausa. Mattino. Spezia, buongiorno. Io ti vedo e ti sento. Ieri ho assistito a una scena terribile. L'ultima confezione di amochina sullo scaffale di un supermercato, due donne se le sono date di santa ragione. Alla fine è arrivato un altro e se l'è preso lui. Roba da matti. Sta roba ci sta sfuggendo di mano. Altro che psicosi. Qui ci vuole uno psicologo. Certo che prenderla con tranquillità, perché sono anziani, Simone, mi sembra un po' esagerata, perché vorrei vedere se fosse tuo padre o tuo nonno, se tu saresti tanto, tanto presa con tranquillità. Ma no. Dico semplicemente, ogni tanto sentite questo rumore strano che entra nel microfono, perché non si sa perché qualcuno ha cambiato la sedia nello studio e quindi cigola. Sentiamo, va. Adesso recupero una sedia normale, per le 8:20. Ci proviamo. Dunque, qualche ascoltatore fa notare, dice: come mai non avete risposto, commentato il primo messaggio sulle scuole? Quello dell'ascoltatore ci dice: ragazzi, è un problema, perché se chiudono le scuole noi non sappiamo cosa fare, perché poi noi al lavoro ci continuiamo ad andare, le scuole sono chiuse e che cosa facciamo con i nostri figli? È un'ottima domanda alla quale non c'è risposta in questo momento, quindi se vuole la commento dicendo che in questo momento non è prevista una risposta su questo tema, né istituzionale né di altro tipo. E sulla questione degli anziani, dico semplicemente che quello che ci dicono i virologi e gli infettivologi è che, insomma, quello che... per certi versi viene più colpita la popolazione normalmente colpita dall'influenza. E certo, poi la preoccupazione c'è anche per loro, come ovvio che sia, insomma. Allora, proprio a proposito di coronavirus, dunque veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, dedicata in gran parte, come è naturale, a questo. Tra un attimo ospiteremo anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, per capire come mai abbia pensato di chiudere le scuole nelle Marche, anche nelle Marche appunto, a proposito di scuole. E però inizierei dal Corriere della Sera. Oggi l'intervista all'infettivologo che vi segnalo è quella sul Corriere della Sera, è Massimo Andreoni, che è professore ordinario di malattie infettive a Tor Vergata a Roma, è direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, la SIMIT, con la quale, tra l'altro, come sapete, abbiamo insomma, si sono messi a disposizione degli ascoltatori di Radio 24, e ogni giorno Nicoletta Carbone dedicherà uno spazio alle risposte date a voi proprio dagli esperti della SIMIT. Ed è Massimo Andreoni, appunto, lo intervista Margherita De Bac e ci aiuta a chiarire alcuni punti ancora fossero rimasti, insomma, in dubbio. È in tutto e per tutto un virus respiratorio che passa da un individuo all'altro, trasportato dalle goccioline messe con tosse e starnuti. Si introduce nell'organismo utilizzando tre vie: bocca, naso, in misura minore, occhi. Il contagio diretto attraverso le mani può avvenire solo se stringiamo la mano di una persona malata che ha appena starnutito e portiamo le mani al viso. È una sciocchezza che il virus sopravviva a lungo al di fuori delle cellule umane e resti aggressivo depositandosi sulle superfici, dice. E ancora sul cibo: è un virus respiratorio, la via alimentare non la sa percorrere, ci dice Andreoni, quindi non sa introdursi nell'organismo attraverso il sistema digestivo, usa solo naso e bocca, e attraverso queste aperture può raggiungere i polmoni, causando casi più gravi che possono finire in terapia intensiva. E il più delle volte, lo ripeto, non produce sintomi oppure ne esprime di lievi, come raffreddore, congiuntivite, tosse e pochi decimi di febbre. Oggi, devo dirvi, mi si è aperto il cuore con pagina 15 della Repubblica e l'intervista a Piero Angela. Titolo: fidiamoci degli esperti senza cambiare vita. E guardate che c'è un pezzo di questa intervista realizzata da Luca Fraioli, nella quale sembra di sentire la sua voce, eh? Microorganismi molto aggressivi ci sono sempre stati nella storia dell'umanità e hanno fatto vere e proprie stragi, anche in epoche relativamente recenti. Si pensi al vaiolo, debellato nel 77, ma che fino ad allora aveva fatto 500 milioni di morti, o alla già citata spagnola, o ancora all'HIV, che secondo l'OMS dall'inizio dell'epidemia ha fatto 32 milioni di morti. Cosa dice Piero Angela? Dice: da giornalista ascolterei tutte le fonti più autorevoli per poi fare una sintesi. Da privato cittadino mi regolo con prudenza. Può darci che abbia ragione lo scienziato secondo cui questa è un'infezione appena più seria di un'influenza. Ma se poi non è così, mi dico: perché superare un camion in curva? Meglio aspettare il rettilineo. L'intervista a Piero Angela la trovate a pagina 15 del quotidiano La Repubblica. E sempre a proposito di coronavirus, ci sono una marea di spunti sui quotidiani. Alessandro Rico sulla Verità, che mette un po' insieme le incongruenze delle ordinanze che troviamo in giro, no? Prendiamo ad esempio l'ordinanza, dice, con la quale la Regione Lombardia ha disposto la chiusura di pub e discoteche dalle 18 alle 6 di mattina. Ma perché dalle 8 alle 6, dalle 18 alle 6? Il virus si sveglia al tramonto come i vampiri, contagia gli avventori delle balere e risparmia chi fa colazione al bar? E perché escludere negozi e ristoranti? La risposta, invero, è ovvia: non puoi serrare qualunque attività commerciale, non puoi mettere sul lastrico i piccoli esercenti e non puoi trasmettere il segnale inverso, dal tranquilli stiamo facendo qualcosa all'atmosfera da apocalisse zombie. E ci sono tutta una serie di elementi e di incongruenze di quello che sta succedendo in questi giorni che ci segnala il giornalista della Verità. Nel fine settimana si è giocato anche il sei nazioni di rugby a Roma. Questa manifestazione avrà attratto qualche appassionato da Lombardia Lombardia o Veneto? Se sì, perché il tifoso poteva andare all'Olimpico e non a San Siro? Se invece non c'erano rischi per questa adunata, per quale motivo Virginia Raggi intanto ha fermato i concorsi pubblici? A Firenze è saltato il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, ma domenica al Mandela Forum si è svolto il derby di pallavolo tra Savino Del Bene e Bisonte davanti a 4.000 persone. Non era un assembramento. E se in Toscana è tutto sotto controllo, perché il carnevale di Viareggio no, ma il volley con 4.000 persone nel palazzetto sì? Come capite, insomma, c'è una discreta confusione, a partire da quella che sta avvenendo nelle regioni del Mezzogiorno. Lo racconta bene qua sulla Stampa, pagina 15, Angelo Di Marino, lo avete sentito anche nella controcopertina di Raffaella Calandra, no? C'è tutto un pezzo che è dedicato ai danni collaterali dell'emergenza al sud. I sindaci che sono spiazzati dai ritorni forzati, tutti quegli insegnanti che per esempio lavorano al nord e in questo momento sono con le scuole chiuse e non sanno che cosa fanno. Tornano nel loro paese d'origine e i sindaci cosa dicono? Beh, per favore, state in casa per 2 settimane, insomma state in quarantena. La psicosi che si è scatenata ieri e che ha portato a tutta questa marea di ritardi sui treni, una dirigente della stazione di Castel Pusterlengo che ha un mal di pancia mentre è al lavoro. A Castel Pusterlengo, siamo nell'Odigiano, no? È un'arteria dell'alta velocità. Cosa fanno i colleghi? Dice, sto male, me ne devo andare. I colleghi dicono, no, non la sostituiamo perché in quella stanza non possiamo entrare. Metti che ha il coronavirus e dunque fa il tampone a lei, blocca tutto e per 5 ore si ferma tutto. E su uno dei treni bloccati, tra l'altro, curiosamente, per un gioco del destino, si trovava, e lo intervista il quotidiano La Repubblica, pagina 11, Fabio Sbattella, che è responsabile di psicologia dell'emergenza all'Università Cattolica di Milano, e dice: fermi per ore sul convoglio a porte chiuse, origami e gru di carta per passare il tempo. Traffico. Mattino. Sì, è Casal Pusterlengo, naturalmente, ho sbagliato, lo dico all'ascoltatore che mi ha corretto. Ultime due segnalazioni, il Sole 24 Ore con un'ottima pagina, pagina 3, che ci racconta l'ondata di vendite sui mercati, la virata su oro e materie prime, questi indici di borsa che scendono pesantemente, Milano del 5,4%. Pagina 8 con le misure in arrivo per le aziende, lo stop agli adempimenti e un nuovo decreto in arrivo per le imprese. Ovviamente non basterà, ma soprattutto l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, che avete sentito in sintesi in GR24, lo risentirete tra un attimo, Fabio Tamburini, la forza di reagire senza perdere la testa, dove da una parte si invoca razionalità e dall'altra parte si dice occhio, proviamo a guardare anche l'aspetto innanzitutto diverso, il fatto che il mondo in una certa misura sta ripartendo, Volkswagen riapre le fabbriche in Cina per esempio, e dall'altra parte anche all'opportunità che questo virus può rappresentare per dare un duro colpo alla burocrazia, realizzare finalmente una rete digitale in grado di collegare l'intero paese e persino tradurre in scelte concrete la suggestione di riportare in Italia una parte delle lavorazioni esternalizzate in altre aree del mondo, a partire dall'estremo oriente, scrive Fabio Tamburini. Condizione indispensabile che vada riscoperta una virtù troppo spesso dimenticata, la compattezza nazionale, purtroppo frantumata dalla paura per il coronavirus. Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, buongiorno. Buongiorno. Perché vuole chiudere le scuole? Ma è una misura che quello che è il gruppo che si attiva a livello sanitario in momenti di emergenza ha suggerito per limitare il più possibile i contatti tra le persone e il rischio in una fase molto delicata. Contagi ne avete voi nelle Marche? No, abbiamo avuto molte segnalazioni, tutte verificate, tutte risultate negative, e però quando arrivate in Emilia-Romagna chiaramente la cosa per noi anche in termini di attenzione è cambiata. Allora, ieri lei ha annunciato un'ordinanza, ha annunciato la chiusura delle scuole, dopodiché le è arrivata una telefonata del Presidente del Consiglio e ha detto occhio, no, fermi tutti, ne parliamo domani mattina alle 10, che sarebbe oggi sostanzialmente. Che altro le ha detto Conte? Ma sulla necessità, a suo giudizio, di un coordinamento vero nazionale che stabilisse in qualche maniera delle zone, delle, chiamiamo, risposte proporzionali alla situazione, quindi chiamiamo un modello con un coordinamento nazionale, cosa che nel decreto non viene indicato. Cericcioli, non pensa che sia eccessivo tutto quello che sta avvenendo? Beh, se uno segue insomma, quelle che sono le indicazioni di chi si occupa di queste cose e dà dei suggerimenti, ovviamente in termini precauzionali, io credo che non si sbagli, cioè, non è che sono iniziative che nascono da un amministratore che si sveglia la mattina, ci sono gruppi che si occupano di questo, di professionisti, e una volta che gli strumenti come il decreto legge della notte di domenica ci dava la possibilità di fare, hanno suggerito quelle che ritenevano le iniziative più opportune. Il rischio, mi pare anche, Ceriscioli, anche voi siete una regione industriale, quindi no, un forte contributore del prodotto interno lordo, il rischio certo. è fermare un paese per una manciata di casi. È proprio quello, cioè l'attenzione che ho visto da parte degli studiosi in una forma, chiamiamola equilibrata, che cerca di limitare le cose che non producono particolari contraccolpi, mentre lasciare andare, chiamiamole, situazioni più difficilmente fermabili, proprio per non arrestare il paese. È quell'equilibrio che ha un valore particolare. Chiaro che sui treni si viaggia, in questo momento sono sul treno e sto andando ancora, perché fermare tutti i treni sarebbe una cosa deleteria, quella sì per l'economia, ma se per qualche giorno manifestazioni, che ne so, il carnevale di oggi, piuttosto che l'attività scolastica si sospende, si riducono i rischi senza avere contraccolpi forti, insomma, sulla situazione più generale. Ceriscioli, è una domanda che ho posto ieri anche al suo collega, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ed è questa. Quando ci si ferma, o meglio, quando si riparte, ossia c'è un'elaborazione di scenario secondo la quale potete dire, non lo so, da questo momento in avanti, quando succede questo evento, riapro le scuole, faccio ripartire la possibilità di assembramenti e via dicendo, perché se no il rischio è di andare avanti a tempo indeterminato, cioè trasformarsi in una Wuhan, bloccare il paese e non ripartire più. No, vale lo stesso principio, come sta accadendo del resto in alcune località della Cina, dove dopo il periodo, chiamiamolo, di arresto, sono ripartiti e portano avanti. Il principio è sempre lo stesso, fare riferimento alle stesse competenze, che sempre guardando l'evoluzione della situazione, così come ti suggeriscono oggi di rallentare, domani ti diranno di aprire. Ok, quindi ripeto, non c'è un'ipotesi di scenari, cioè non c'è, non lo so, lo scenario A, i contagi si fermano, lo scenario B, i contagi aumentano, non lo so, dell'1% a settimana, lo scenario C, c'è l'esplosione dei contagi e quindi su quella base mi muovo e prendo decisioni politiche, c'è questo elemento. Quello che ci tengo a sottolineare è che è sempre una decisione politica confrontata con una struttura tecnica specializzata. Se non parliamo del politico che... Sì, però Ceriscioli, mi scusi, mi perdoni, alle strutture tecniche voi chiederete di elaborare degli scenari, no? Lo scenario peggiore, come si fa nelle aziende, se vuole, no? Lo scenario peggiore, lo scenario migliore Ma anche con loro condividere quelle che sono le contromisure in rapporto allo scenario, cioè non è solo dire... È quello dico, esatto, esatto. Crescita, ma anche le contromisure dicendo a questo punto cosa è più opportuno fare. E io credo che affidandosi in questo rapporto, anche questa riscoperta che c'è stata in questo periodo del valore della competenza scientifica e tecnica delle figure che lavorano con noi in sanità da sempre, fa in modo che la scelta politica sia affiancata e supportata da un'adeguata competenza sotto il profilo tecnico. Vedremo come andrà la giornata dunque oggi, vedremo come andrà questa riunione. Grazie intanto a Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo. Segnalo agli ascoltatori che il cigolio ulteriore che avete sentito poco fa non era la sedia, perché il microfono era chiuso mentre parlava Ceriscioli, ma era Ceriscioli che, come avete sentito, era in treno, quindi si sentivano le frenate delle ruote del treno e sembrava il cigolio della sedia. Ci fermiamo. Tra poco con Maria Latella avremo ospite il Vice Ministro della Salute Sileri, con il quale ovviamente fare un punto. Ci sarà ospite anche il Vice Ministro dell'Interno per raccontarci un po' come vanno le cose anche nelle zone rosse. Insomma, io sono anche curioso di capire se c'è un modo o un'idea che hanno per evitare gli accaparramenti da una parte di beni alimentari e le truffe dall'altra. 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, anche audio, e poi l'800-24-0024 per intervenire in diretta a partire naturalmente alle 8:20, ma insomma se tra poco volete iniziare a chiamare e prenotarvi, ci siamo dopo il GR.